Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus sale a oltre 20.000 il numero dei contagi, 425 le vittime. Per l'OMS non è una pandemia, messo a punto dai ricercatori di Padova il test per la diagnosi. Primarie democratiche in Iowa, caos e ritardi, lo staff di Bernie Sanders annuncia: abbiamo vinto col 29%. Libia, c'è l'accordo per il cessate il fuoco permanente tra le fazioni, lo annuncia l'ONU dal vertice di Ginevra. Istat, ecco il nuovo paniere dei beni di consumo. Per misurare l'inflazione entrano il sushi, il monopattino, l'auto elettrica e la cosmetica maschile. Sanremo al via il festival, apre Irene Grandi sul palco con Amadeus, Tiziano Ferro e Fiorello. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24 e nei prossimi 15 minuti i titoli principali di oggi, poi a partire dalle 13.15 i nostri approfondimenti. Le notizie sul coronavirus in apertura: il numero dei contagi è salito a oltre 20.000, mentre i decessi ufficiali sono 425 per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però non si tratta ancora di una pandemia. Nuovo importante risultato anche per la ricerca italiana, è stato messo a punto un test di diagnosi. Allora facciamo il punto con queste notizie con Rosanna Magnano. Buongiorno. L'epidemia di coronavirus accelera in Cina, ma il tasso di mortalità dell'infezione è sceso al 2,1% rispetto al 2,3% riscontrato all'inizio del contagio. E in Italia il liceo artistico di Udine ha preparato un piano di rientro sereno a scuola per il 17enne di grado che non è potuto partire con gli altri italiani rimpatriati e che è rimasto a Wuhan con la febbre. I risultati dei test arrivati stamattina hanno escluso il contagio da coronavirus. Si sono invece aggravate le condizioni dei due pazienti cinesi ricoverati allo Spallanzani, che sono sottoposti a tutte le cure, compresi farmaci antivirali sperimentali. E l'Italia, intanto, come dicevi, continua ad attrezzarsi per un'eventuale accelerazione dell'epidemia nel nostro paese. E dopo lo Spallanzani, anche il laboratorio di virologia dell'Università di Padova ha messo a punto un test diagnostico tra i più rapidi ed efficaci al mondo per il coronavirus. Ascoltiamo Andrea Crisanti, responsabile del laboratorio di virologia dell'Università di Padova. Un test diagnostico molecolare che permette di identificare il materiale genetico del virus, che in questo caso è un filamento di RNA. È molto preciso, ha una sensibilità elevatissima che permette anche di scoprire i portatori sani e ha un tempo di esecuzione intorno a 2 ore, 2 ore e mezzo. E chiaramente sia il tempo di esecuzione che la specificità, che la soglia molto bassa, avranno un impatto nel caso ce ne fosse la necessità di gestire l'epidemia in modo razionale e mobilitare le risorse nel modo corretto. Così dunque il ricercatore di Padova su questo importante test per la diagnosi, per individuare il coronavirus. E sempre in Italia, dopo le richieste dei governatori delle regioni del nord di tenere in quarantena i bambini studenti cinesi rientrati dalla Cina, oggi è intervenuta la portavoce del Ministero degli Esteri cinese: speriamo che l'Italia faccia una valutazione oggettiva, calma e razionale dell'epidemia, ha detto. Sentiamo. Dopo il blocco totale dei voli da e per la Cina, operativo dal 31 gennaio, il Ministero della Salute ha deciso che già a partire da oggi tutti i passeggeri in arrivo in porti e aeroporti italiani, anche dall'Europa, saranno sottoposti a controllo della temperatura con scanner termici. In caso di febbre, il passeggero sarà sottoposto subito a ulteriori test e, se sospettato di coronavirus, sarà ricoverato per accertamenti. Il personale medico-sanitario negli scali sarà aumentato da 5 a 10 volte quello attuale. Accordo inoltre con Twitter per bloccare le bufale online e privilegiare nelle ricerche le informazioni scientifiche affidabili. Nessun ripensamento invece dal governo sul tema dei ragazzi a scuola. I governatori delle regioni del nord chiedono una quarantena precauzionale per chi proviene dalle zone a rischio della Cina. Il Ministero della Salute spiega che un divieto di ritorno a scuola per chi è senza sintomi non c'è in nessuna parte del mondo e comunque dal 21 gennaio chiunque sia tornato dalle regioni infette è stato sottoposto a test e ad oggi ricontattato non presenta sintomi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E se la stima del costo globale dell'epidemia SARS del 2003 fu attorno a 40 miliardi di dollari, resta ancora difficile per il momento valutare, fare una stima di quello che potrebbe essere il costo finale a livello mondiale di questa nuova epidemia di coronavirus. Ne ha parlato Anna Marino con, per quanto riguarda l'Italia naturalmente, il direttore generale della Fondazione Italia-Cina, Vincenzo Petrone. il primo impatto si verifica sulle aziende italiane che operano in Cina. Viene poco ricordato in questi giorni che nella Cina continentale ci sono 1700 aziende italiane ed altre 400 circa sono ad Hong Kong. Una parte importante delle aziende della Cina continentale o hanno orari molto ridotti. Il settore che soffrirà di più sarà quello della meccanica. Il secondo settore sicuramente è quello delle 3F, il fashion, food and mobili, moda e anche importazioni di prodotti alimentari. Dal punto di vista del lusso, naturalmente l'impatto è fortissimo, soprattutto in una città come Milano, che da sola registra una vendita a turisti cinesi di prodotti di lusso pari al 37% del totale. E ancora stiamo all'estero, andiamo in Libia. Le fazioni rivali avrebbero accettato di trasformare la tregua in un cessate il fuoco permanente. Questa è la buona notizia annunciata oggi dalle Nazioni Unite, dall'ONU, all'indomani della prima riunione ieri a Ginevra del Comitato Militare Congiunto composto dai membri di entrambi le parti. Ritardi nell'elaborazione dei voti hanno fatto piombare nel caos le elezioni per le primarie democratiche negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Lo staff di Bernie Sanders ha diffuso i suoi risultati interni dicendosi in vantaggio, ma il risultato è ancora tutto da vedere. Donald Trump invece ha vinto i caucus repubblicani. Il primo turno delle primarie democratiche si è svolto ieri sera nell'Iowa, stato rurale bianco nel Midwest che ha una governatrice repubblicana, stato nel quale storicamente comincia la corsa per la nomination del Partito Democratico. 10 i candidati in corsa, con 4 frontrunners. Bernie Sanders, che piace ai giovani e millennials, Elizabeth Warren, la candidata delle donne, Joe Biden, che raccoglie le preferenze dei moderati e delle persone più mature, e i voti trasversali per il giovane Pete Buttigieg, che potrebbe essere la vera sorpresa. Le prime stime preliminari rese note dal New York Times danno Sanders in vantaggio con il 33%, ma i risultati ufficiali non ci sono ancora. Sono in forte ritardo. Sembra che non tutti i responsabili dei vari seggi siano riusciti a far funzionare l'app che si sta sperimentando per la prima volta per inviare i risultati dei 1700 caucus, le assemblee di base che si sono svolte in 99 contee, nelle palestre, le case, le chiese e le scuole di questo sterminato stato, con le persone che hanno sfidato le gelide temperature notturne a 7 gradi sotto zero pur di poter esprimere la loro preferenza. Riccardo Barla, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Il caso Regeni, l'ambasciatore italiano al Cairo Cantini da molto tempo non ci risponde evidentemente, persegue altri obiettivi rispetto a verità e giustizia. Lo hanno detto oggi i genitori di Giulio Regeni davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta in riferimento all'uccisione del ricercatore italiano in Egitto. E per la politica facciamo il punto sulla giornata politica, cominciamo con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si trova oggi a Londra. La situazione è sotto controllo, non ci sono i presupposti per allarme o panico, bisogna fidarsi delle autorità. Giuseppe Conte rassicura dopo l'incontro sul coronavirus con i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e ai governatori del nord dice di aver fiducia in chi decide su come tutelare i cittadini dal contagio. Invito i governatori anche del nord che hanno espresso questa premura a fidarsi ovviamente di chi ha una specifica competenza. Non ci sono queste condizioni. Ieri mi è stato richiesto anche la sospensione del trattato di Schengen, della libera circolazione. Non c'è neppure la condizione per questo. Il Presidente del Consiglio da Londra, dove è arrivato per la riunione sul clima, prova a smorzare anche le tensioni nella maggioranza sulla riforma del processo penale e la prescrizione dei reati. In settimana, dice, ci sarà un nuovo incontro per trovare un punto di equilibrio. E a Londra, Conte metterà mano anche al complicato dossier ex Ilva. In giornata incontrerà infatti i vertici di Mittal, con l'obiettivo di provare a fare passi avanti prima del 7 febbraio, giorno in cui è fissata l'udienza al Tribunale di Milano contro l'addio a Taranto di ArcelorMittal. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Presentato oggi il nuovo paniere dell'Istat per misurare il costo della vita, l'inflazione, quali sono i beni scelti dall'Istat per monitorare l'andamento dei prezzi. Sentiamo Federico Polidoro, responsabile di statistiche sui prezzi al consumo dell'Istat, al microfono di Marco Mancini. Le novità principali riguardano in primo luogo la mobilità sostenibile, sono entrate le automobili elettriche e le automobili ibride elettriche. entrato nel paniere il monopattino elettrico. Tra le abitudini alimentari sono emerse alcune novità importanti di cui abbiamo tenuto conto nel paniere, per cui sono entrate nel paniere la consegna dei pasti a domicilio e il sushi takeaway. Ancora sono entrati nel paniere alcuni prodotti, servizi tipici di un'evoluzione delle abitudini delle famiglie, servizio di barba e baffi e trattamenti estetici, per uomo, in particolar modo della popolazione maschile, che fa ricorso sempre di più ai trattamenti estetici. Infine sono entrati gli apparecchi acustici, questi tra le novità più rilevanti proprio in termini di nuovi consumi, che indubbiamente sono rivolti a tutta la popolazione che ha problemi di udito, ma sono anche il segnale del progressivo invecchiamento della popolazione. La cronaca in corso: una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma per eseguire misure cautelari nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti a due diverse associazioni, una vicina all'Andrangheta, l'altra alla Camorra. E sempre a Roma, oggi sul fronte della mobilità è riaperta la fermata Barberino della metropolitana, ma solo in uscita, e intanto invece si è bloccata la linea ferroviaria locale Termini Centocelle per assenza di personale ATAC. Ne parleremo tra poco nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso invece la giornata mondiale della lotta contro il cancro si celebra oggi. I risultati in Italia sono incoraggianti. Nella giornata mondiale contro il cancro l'OMS lancia l'allarme. Se non ci sarà un cambio di rotta, il mondo vedrà un aumento del 60% dei casi di tumore nei prossimi 20 anni, e la crescita maggiore di nuovi casi, stimata all'81%, si verificherà nei paesi a basso e medio reddito, dove i tassi di sopravvivenza sono più esigui. Un gap inaccettabile. In Italia, invece, in 10 anni, i pazienti vivi dopo la diagnosi di tumore sono aumentati del 53%. Erano 2.250.000 nel 2010, oggi sono 3.460.000. La qualità del nostro sistema sanitario nazionale è testimoniata dalla sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, con tassi più alti rispetto alla media europea nei tumori più frequenti. Tra l'altro, raggiungiamo questi validi risultati seppure con minori investimenti, dato che la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL del nostro paese ha registrato un calo, passando dal 7% nel 2010 al 6,5% nel 2017, a fronte del 9,8% della media europea. Vi sono però ancora differenze regionali che devono essere superate, perché nessuno rimanga indietro e tutti possano accedere alle cure più efficaci indipendentemente dal luogo in cui vivono. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pronti via, stasera inizia il Festival della Canzone Italiana e in collegamento da Sanremo c'è la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao Alessio, sì, Sanremo si parte questa sera, sì. Finalmente, ha detto Amadeus in conferenza stampa, lo diciamo anche noi, finalmente, battitore libero a Fiorello, ospite fisso Tiziano Ferro, che canterà Nel blu dipinto di blu, Almeno tu nell'universo e la sua Accetto miracoli, poi all'Ariston i primi 12 big in gara. In ordine di esibizione saranno Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Ricky e Rafael Gualazzi. Gli altri 12 canteranno domani, vota solo la demoscopica. Questa sera non c'è televoto. In apertura di serata le sfide dirette tra le prime 4 nuove proposte, sfide da cui usciranno due semifinalisti, Eugenio in Via di Gioia contro Tecla e Fadi contro Leo Gassman. Ovviamente ci saranno le prime signore del festival, Diletta Leotta, Rulla Gebreal con il suo monologo sulla violenza contro le donne, tema che tornerà centrale anche con l'intervento di Jessica Notaro, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato. I super ospiti Albano e Romina Power con la figlia Romina Junior, anche il cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli. Insomma, quindi queste sono le istruzioni per l'uso della serata di questa sera, la prima di Sanremo 70. Grazie Marta Cagnola. Oddio, soltanto dall'elenco, cioè ci è voluto quasi 2 minuti solo per l'elenco degli ospiti, quindi grande effetto quantità per Amadeus all'esordio al festival. Vedremo se arriverà anche la qualità, sicuramente ci sarà, stiamo solo scherzando. Effetto Giorno fa una pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri commenti anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Come anticipato, Parleremo della situazione della mobilità a Roma nel giorno in cui riapre la stazione metropolitana Barberino, ma si annuncia la chiusura e se la sono trovata di fronte ai pendolari della linea stamattina, Termini 100 Celle, quindi le prospettive per la mobilità a Roma, ma poi anche il caso del no del consorzio per la tutela della nocciola in Calabria, detto niente poco di meno che alla Ferrero. A tra poco. Effetto giorno. Libia, l'ONU annuncia l'accordo per il cessate il fuoco permanente tra le fazioni. Coronavirus sale a oltre 20.000 il numero dei contagi, ma per l'OMS non è una pandemia. Realizzato a Padova il test per la diagnosi. Istat, nel nuovo paniere dei beni di consumo entrano il sushi, il monopattino e l'auto elettrica. Roma riapre la fermata Barberino della metro, si blocca però la linea Termini 100 Celle per assenza di personale ATAC. A effetto giorno ne parliamo col presidente di Roma Mobilità. Calabria, Ferrero firma un contratto con 30 produttori di nocciole, ma il consorzio di tutela dice no alla multinazionale perché non aiuta gli imprenditori locali. Sanremo al via il festival, apre Irene Grandi, sul palco anche Tiziano Ferro e Fiorello. Minuti, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Quelli che avete appena sentito sono i titoli della giornata di oggi, compresa la notizia che riguarda Roma della riapertura attesa della fermata della metropolitana di Barberino, perché c'è stata una chiusura di quasi un anno per un guasto alla scala mobile. E ne parliamo con l'ingegnere Stefano Brinchi, che è presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la mobilità. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E anche parliamo comunque della situazione in generale della mobilità a Roma. Voi avete appena effettuato un report nel quale si parla del divario che c'è tra le aspettative dei romani, che continuano a sperarci, direbbe da dire, a credere in una mobilità sostenibile, e invece la realtà, soprattutto quella che riguarda i mezzi pubblici, molto in ritardo, e anche del fatto che stamattina i pendolari sono trovati chiusa una linea di ferrovia locale Termini 100 Celle per assenza di personale ATAC. Partiamo però da Barberini, la fermata della metropolitana che riapre. Cosa vuol dire per il traffico di Roma? Questa è una buona notizia, naturalmente. Certo, assolutamente. Premetto che il nostro compito è quello di pianificare e programmare i servizi, quindi siamo il braccio operativo di Roma Capitale, sì, per certo, gestire la mobilità, non siamo l'azienda dei trasporti, e quindi accogliamo con grande favore questo intervento che ATAC ha fatto nel ripristino in sicurezza, appunto prima di tutto la sicurezza della fermata. Questo è quello che ha detto quello che ha detto anche la sindaca Raggi. Effettivamente ha detto, per diciamo giustificare il ritardo con cui si è riaperta Barberini, prima di tutto la sicurezza. Però è normale che ci voglia un anno di tempo per fare un intervento di questo genere? Cioè, voi che avete comunque un monitoraggio dal punto di vista tecnico di quanto è la mobilità a Roma. Sì, il monitoraggio ce l'abbiamo, ma non ce l'abbiamo ovviamente sugli impianti di traslazione, che è una attività delegata completamente all'esercente. Quindi le posso solo dire che noi abbiamo messo in atto tutte, sì, le azioni necessarie per mitigare i problemi legati alla stazione di Barberini, attivando una linea bus, chiedendo l'attivazione al gestore di una linea bus, la MA10, che è in servizio praticamente dalla stazione Termini fino a tutto, innerva tutto il centro storico, passando per Barberini, proprio per mitigare i disagi che vengono provocati in situazioni di malfunzionamenti o chiusure per sicurezza delle stazioni. E questo per quanto riguarda Barberini. Per quanto riguarda, sì, invece l'altra notizia di questa mattina, cioè della chiusura del blocco, credo temporaneo, non so se se l'ATAC poi ha specificato, perché stamattina con un tweet veniva annunciato che la linea Termini 100 Celle era chiusa, interrotta, bloccata, insomma non circolavano i treni per indisponibilità di personale. Che cosa comporta questo nuovo stop per la mobilità romana? Allora, quella oggi chiamata ancora ferrovia è un'infrastruttura che è tutta ricadente nel territorio di Roma Capitale ed è gestita dalla regione, che con un contratto di servizio verso il gestore ATAC. Cosa sia successo questa mattina cercheremo di capirlo nel corso della giornata. Quello che è stato messo in campo per ovviare all'inconveniente è stato, come dichiarato dall'azienda stessa, il potenziamento della linea che corre parallela alla ferrovia, la linea su gomma, che è il 105, proprio per mitigare questi disagi. Senta, e invece venendo diciamo alle vostre tematiche, come Agenzia per la Mobilità di Roma avete appena messo a punto un report per fotografare un po' la situazione per quanto riguarda l'andamento della mobilità in città, mezzi privati, autovetture, scarsissimo uso della bicicletta o di mezzi alternativi, anche per quanto riguarda l'uso dei mezzi pubblici, solo 2 romani su 10 ne fanno ricorso all'autobus per spostarsi. Io ho detto i romani ci credono ancora, è così? Cioè avete registrato questa fiducia, questa attesa, questa speranza o invece non è così? Guardi, io innanzitutto ci tengo a dirle che questo rapporto è un punto di partenza fondamentale, perché mancava da Roma da qualche anno, quindi la prima cosa che ho chiesto una volta diventato presidente nel marzo del 18 è proprio quello di dare una fotografia realistica della situazione. Però voglio anche raccontare in maniera realistica i dati. Il 42%, non 2 su 10, il 42% delle persone a Roma usano la mobilità sostenibile. Se leggiamo il rapporto c'è scritto questo. C'è scritto anche che il 21% nell'intera giornata, quindi anche di notte, dove è più probabile utilizzare l'autovettura privata, dove i tempi di spostamento sono diversi, utilizza, quindi il 21% utilizza il trasporto pubblico. Nell'ora di punta siamo al 30% di utilizzo del trasporto pubblico. Ed è un dato, secondo lei, come dire, di partenza soddisfacente rispetto ad altre città paragonabili a Roma, capitali italiane e europee? Provo a darle una risposta perché è un po' complessa. Sì. Roma è una città molto estesa, 1.285 km quadrati e gestisce nella città metropolitana, diciamo la cintura metropolitana, 4.300.000 abitanti. Nel centro storico Roma ha una ripartizione modale del trasporto pubblico pari al 55%, pari a tutte le altre capitali europee. Se il dato viene mediato, ovviamente, su tutta la città scende, ma ripeto, io quello che voglio mettere in evidenza è il 42% di persone che si spostano con sistemi di mobilità sostenibile. È bassa la città. Cosa intende per mobilità sostenibile? Trasporto pubblico, car sharing, bike sharing, ciclabilità, pedonalità. Il 55% degli spostamenti che vengono effettuati dai romani, perché stiamo parlando di 5.300.000 a cui lei faceva riferimento relativamente al rapporto, è relativo solo ai residenti romani, non include diciamo la parte che viene il pendolarismo. Si spostano con il 55%, le dicevo, avvengono al di sotto dei 30 minuti. Significa che la città ha spostamenti anche corti, importanti, che possono essere pian piano svolti anche con l'incremento dell'uso della bici. È un punto di partenza, lo sappiamo bene, siamo al 42%, abbiamo fatto azioni in area vasta su queste tematiche. Le rappresento anche che i titoli di viaggio, che segnano anche diciamo un'altra misura dell'utilizzo del trasporto pubblico, sono aumentati tra il 17 e il 18. Aspetto con molto favore l'edizione del 2019, perché questi dati si riferiscono al 17 e al 18. Va bene, Stefano Brinchi, io sì, la ringrazio, la Presidente Amministratore Delegato di Roma Servizi per la Mobilità, la ringrazio per essere stato con noi. Alcuni ascoltatori commentano 2 anni per fare un report. Beh, insomma, sì, forse sono tanti 2 anni per fare un report, 1 anno e mezzo, ma che dire, prendiamo per buono questo punto di partenza che Brinchi di Roma Mobilità ci ha appena illustrato, cioè un'analisi dei fabbisogni, dei flussi, che è fondamentale in una città anche complessa, anche caotica come Roma, per capire da dove ripartire, dove investire anche quelle energie, anche economiche, che non sono tantissime, che ci sono, che ci possono essere, per migliorare il servizio. A voi romani affido al 349-238-6666 i commenti, se volete, a questa intervista. E li leggeremo naturalmente dopo la pausa alle 13.35 circa. Adesso invece facciamo un passo di lato e torniamo a parlare di politica, perché archiviate le regionali della Calabria e dell'Emilia Romagna, già aperta la corsa per la presidenza delle altre regioni. Ce ne parla Daniele Biacchessi. Archiviate le regionali in Emilia-Romagna e Calabria, il 2020 riserva nuove sfide elettorali. Il 31 maggio si vota in 6 regioni, Campania, Liguria, Toscana, Puglia, Marche e Veneto. Si tratta di un test di rilevanza nazionale in grado di influire sugli equilibri tra maggioranza e opposizione ed essere determinanti all'interno dei due blocchi politici principali, centrodestra e centrosinistra. Le candidature sono abbastanza certe in Campania, lo scontro tra Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro e in Puglia tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto. Risultano definiti i nomi del centrodestra in Liguria, Giovanni Toti, in Veneto Luca Zaia e Marche Francesco Acquaroli e del centrosinistra in Toscana Eugenio Giani. Il 5 Stelle ha già determinato i suoi capofila in Toscana, Puglia e Liguria, ma il grosso deve ancora essere deciso. La campagna elettorale è già in atto, ma permangono molte incognite. La frizione tra Renzi e 5 Stelle sulla prescrizione e la tenuta della maggioranza che sostiene Conte, gli stati generali dei pentastellati di marzo, il referendum sul taglio dei parlamentari, l'esito delle supplettive di Napoli e Roma. E molto altro ancora, tra cui l'idea del PD di rilanciare l'azione riformatrice dell'esecutivo su dossier importanti e delicati come lo sviluppo economico del Paese. 13:26 minuti è con noi Giuseppe Roti Roti, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Nocciola di Calabria di Torre di Ruggero. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a tutti quanti, un saluto a tutti quanti, un abbraccio. Allora, Presidente, perché avete detto no alla Ferrero sconfessando, è una domanda che le faccio proprio in termini neutri, insomma, le motivazioni, sconfessando quello che, se abbiamo capito bene, è stato un contratto che invece la Ferrero ha fatto con alcuni produttori locali in Calabria all'interno del piano Nocciola Italia, con cui la multinazionale qualche tempo fa ha annunciato così di voler investire in Italia dopo le accuse per fare molta produzione di nocciole all'estero. Perché voi avete sconfessato questo accordo? Perché noi prima di tutto cerchiamo di valorizzare il nostro territorio, nel senso che noi valorizziamo il territorio tramite una cultura, tramite un prodotto, nel senso che noi non vogliamo mandare fuori una produzione nostra di eccellenza, ma bensì far venire la gente nei nostri territori per vedere e provare e assaggiare il nostro prodotto. Però per mandar fuori, Presidente, lei cosa intende? Il fatto che poi la Ferrero... Ferrero acquista e porta dove ha le sue fabbriche. Perché non la Ferrero non ha costruito una fabbrichetta in Calabria, una linea di produzione per dare poi dei posti di lavoro? Poi con questa fabbrichetta, giustamente, tutte le aziende... Esiste questa possibilità, perché esiste uno stabilimento, per esempio, se non ricordo male, dalle parti di Avellino in Campania o in Basilicata, se non ricordo esattamente, ne abbiamo parlato poco tempo fa, che è legato proprio alla produzione di nocciole locali, cioè potrebbe essere un primo passo la firma di un contratto e poi una fabbrica. Voi però avete detto proprio no alla Ferrero. No, perché la loro intenzione in Calabria è quella solo di produrre e di vendere a loro direttamente, che poi si parla di una produzione, nel senso, loro qual è il progetto? Quello di investire, le aziende devono investire per 7-8 anni, dopo che inizia 8 anni alla produzione, fare il contratto con loro per la vendita. Quindi sarà solo un contratto di, diciamo oggi, solo di impiantare e basta, a spese delle aziende stesse. Presidente, ma dato che chi produce qualunque cosa, compreso nell'agroalimentare e quindi diciamo nel vostro campo, le nocciole, lo fa per venderle, per rivenderle, nel caso di questo contratto con la Ferrero, oltre a quello che lei ha già detto, cosa c'è che non va? Per esempio il prezzo, no? Il prezzo che paga la Ferrero è inferiore, perché mi metto nei panni quei produttori locali che hanno firmato il contratto. È un prezzo inferiore a quello che voi riuscite a ottenere sul mercato interno, per esempio, di quanto? Quando noi ci siamo incontrati 3 anni fa, la domanda che è stata fatta è questa: noi firmiamo un contratto per 20 anni, ma qual è il prezzo? Non hanno saputo rispondere, perché il loro prezzo si parla di un minimo garantito, che è al di sotto dei costi dei prezzi che ci sono adesso. Per esempio, per capirci, anche se non siamo, diciamo, degli esperti del settore, però per darci una misura di quanto, cioè loro ti offrono un contratto garantito, quindi tu sei sicuro che le tue nocciole le venderai a loro per tanto tempo, in cambio ti offrono un prezzo che però non è ottimale. Quant'è la differenza? È una differenza, diciamo, se parliamo di quintali, parliamo di circa 70-80 euro a quintale. Che per un produttore sono soldi, sono una differenza significativa. E quindi, secondo lei, prima di salutarci, Presidente, perché quei produttori invece hanno accettato l'accordo con la Ferrero? Perché quelli non sono produttori, quelli investono a fare la produzione sul nocciolo, nel senso che noi come consorzio già siamo avviati, nel senso che noi stiamo già producendo e ci stiamo già attrezzando piano piano a trasformarla e a vendere il nostro prodotto al miglior offerente. No, ma restando al prodotto nocciola, i soci di queste cooperative o di queste aziende, insomma, i titolari che hanno firmato questo contratto, perché lo hanno fatto secondo lei? Questo le chiedo. Non lo so quale tipo di logica loro hanno preso, non so qual è stato il loro calcolo, però io non vedo nessun risultato su quello che hanno fatto loro. Va bene. Da adesso a fra 10 anni può cambiare di tutto. Staremo a vedere. Intanto grazie al Presidente del Consorzio per la tutela della nocciola di Calabria, Giuseppe Rotiroti, grazie per essere stato con noi. 13:31 minuti, cari ascoltatori, se volete dire la vostra anche su questa situazione, perché ogni volta che una grande impresa, una multinazionale, si fa viva su un territorio, diciamolo pure economicamente svantaggiato come la Calabria, si potrebbe immaginare che gli vengono spalancate le porte, invece evidentemente non è così, c'è qualcosa che non va nei contratti, c'è qualcosa che non va nell'impostazione che avete appena ascoltato del Consorzio per la tutela della nocciola. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco. Effetto giorno. Libia, l'ONU annuncia l'accordo per il cessate il fuoco permanente tra le fazioni. Il padre di Giulio Regeni, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta, attacca l'ambasciatore italiano in Egitto, non cerca la verità. Coronavirus, sale a oltre 20.000 il numero dei contagi, 425 le vittime. Messo a punto dai ricercatori di Padova il test per la diagnosi. Istat, ecco il nuovo paniere dei beni di consumo, entrano sushi, monopattino, auto elettrica e cosmetica maschile. Carnevale di Ivrea nella bufera per un presunto scandalo sessuale. Dopo il passo indietro della vivandiera, l'annuncio, il generale Alberto Bombonato sarà sostituito tra poco con il sindaco di Ivrea. Sanremo avvia il festival, apre Irene Grandi sul palco con Amadeus, Tiziano Ferro e Fiorello. :37 di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Questi erano i titoli di oggi, adesso invece spazio ai vostri messaggi al 349-238-6666. Più che il tema della mobilità di Roma, che forse, diciamo, è un pochino più risentito, non è che ci siano delle grosse novità su quello che è accaduto oggi a Roma, molti messaggi arrivano invece dopo l'intervista al presidente del Consorzio di tutela della nocciola di Calabria, che ha detto no ad un accordo più vasto con la Ferrero. Scrive Alessandro: buongiorno, da piccolo imprenditore devo dire di avere appena udito una delle interviste più anacronistiche della mia vita. Noi non ti diamo le nocciole se non apri una azienda di lavorazione qui in Calabria. Ma il presidente del consorzio dove pensa di vivere? Si domanda Alessandro. E poi ancora c'è chi evidenzia che dove c'è un problema di legalità, chi vuoi che investa in Calabria? Oppure ancora, la mafia non ha convenienza ad aprire una grande azienda. Beh, adesso addirittura paragonare il consorzio alla mafia mi sembra eccessivo, non esageriamo. Certo, sicuramente in Calabria c'è un problema di legalità evidentissimo, grosso, profondo, che sconsiglia tante aziende ad investire. Qua la Ferrero ha fatto una proposta economica a cui il consorzio ha detto no. Poi l'accordo è stato firmato da altri piccoli produttori. Ma in virtù di quale potere, scrive un altro ascoltatore, questo consorzio della nocciola può bloccare un accordo tra privati? Niente, nessun potere di veto, infatti l'accordo c'è stato, semplicemente non è stato avallato dal consorzio, che non ha voluto allargarlo ad altri produttori. Ma la più bella di tutte è questa: il presidente del consorzio di tutela le vuole tutelare le sue nocciole, mica venderle, dice questo ascoltatore. Non è male questa. È il momento del punto, il vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Dimmi la tua inflazione e ti dirò chi sei. Stamattina l'Istat ha annunciato il nuovo paniere dei prodotti sui quali calcola l'impatto dell'aumento dei prezzi per mettere a punto l'indice di inflazione nazionale. Ebbene, nel nuovo database entrano il sushi consumato a domicilio, il monopattino elettrico, ma anche lo smalto semipermanente che spopola nei negozi di laccatura delle unghie. Entrano anche il trattamento di barba e baffi dei nuovi barbieri e i trattamenti estetici per uomo più in generale. Insomma, il paese cambia e il paniere Istat si adegua all'evoluzione di consumi e stili di vita. Nella scorsa messa a punto erano entrati il pannolone e la bici elettrica. Ora è la volta degli apparecchi acustici e, come detto, dei monopattini elettrici, ma anche del servizio di lavaggio e stiratura delle camicie. L'Istat fa statistica, ma se facesse sociologia ci racconterebbe di un paese vecchio e invecchiato che forse ha raggiunto la parità dei sessi nell'uso dell'immagine, molto meno nella sostanza. Un paese vanitoso e narcisista, pigro anche se va in palestra, altra voce del paniere, sensibile alla sostenibilità almeno quanto all'e-commerce, che però tanto sostenibile non è. È l'economia, insomma, a fare il ritratto degli italiani. E poi dicono che è una scienza triste. E va bene, 13:40 minuti e con noi il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli. Benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno a voi ascoltatori. Per parlare del tradizionale carnevale di Ivrea, che quest'anno è un po' turbato da alcuni fatti, da forse un presunto scandalo sessuale. Adesso vedremo. Avete presente il carnevale di Ivrea, quello dove si lanciano le arance, no? Diciamo, immortalato in tutte le foto, in tutte le immagini, proprio da questa cosa qua. Intanto glielo chiedo perché io personalmente non ci sono mai venuto, non ci sono mai stato e non so da cosa deriva questa antica tradizione del lancio delle arance. Come mai? Allora, l'antica tradizione risale a un tiranno dell'epoca che pretendeva lo ius primae noctis dalle spose. E si è beccato delle arance da parte dei mariti. Allora, in realtà si è beccato qualcosa di più. Si sarebbe beccato un lancio di pietre, ma soprattutto il taglio della testa da parte di una mugnaia. Erano altri tempi, ecco, che si è ribellata, ma erano altri tempi. Adesso ci limitiamo a lanciare le arance simbolicamente. La mugnaia è uno dei principali protagonisti. La mugnaia è il personaggio. La vezzosa mugnaia è il personaggio femminile del carnevale. Perché l'altro personaggio, quello maschile, è il generale napoleonico. Andiamo già nella situazione, sul tema da indagare. Allora, questa rievocazione in che giorno viene fatta, questa messa in scena? In un giorno in particolare o avviene in più giorni? No, avviene in più giorni. C'è tutta una parte storica, sì, ma diciamo non fissa nel calendario. Avviene un sabato sera, c'è la presentazione al popolo della vezzosa mugnaia, sì, che avviene dal balcone del municipio il sabato sera alle 9. La tradizione vorrebbe che questa persona sia mantenuta segreta. Ahimè, ciò non si riesce più a mantenerla così segreta, e quindi già in questi giorni circolano voci che io le devo dire, non me lo chieda, non mi crederà, ma io ad oggi non conosco il nome della mugnaia di quest'anno, ma per scelta, ecco, perché però si crea anche un po' un gioco, no? Sì, tra qualche giorno lo saprò e me lo diranno. È un carnevale, è un gioco naturalmente. Ora però fin qua mentre la battaglia delle arance, che è quella più nota, sì. Un momento però, scusi, perché adesso poi riprendiamo anche la parte più divertente, sì, però veniamo alla notizia, perché fin qua abbiamo scherzato, però c'è anche un presunto scandalo sessuale, perché non coinvolge la mugnaia, ma un'altra figura, il generale, nella persona di Alberto Bombonato, che avrebbe fatto delle avances sessuali molto pesanti a un altro personaggio del carnevale, che in persona la vivandiera. Sì, questo è quello che si sa, giusto? Giusto. Allora, No, me lo racconti lei però, perché... No. Forse allora, è più informata. Sono quattro, fanno parte dello Stato Maggiore, sì, quindi sono quattro personaggi femminili, sono le vivandiere. Una di queste vivandiere si è dimessa, sì, quindi prima del carnevale, dopo essere stata nominata, sostenendo di aver avuto un forte disagio a seguito di una serie di messaggi WhatsApp, se non vado errato, sì, ricevuti dal generale, che oggi sono sui giornali, tra l'altro, per cui non so se sono attendibili, se sono veri, se non sono veri. Personalmente io non ho visto i messaggi, ho incontrato la vivandiera in questione, la signora in questione, che dopo, 10 giorni dopo essersi dimessa, ha ritenuto di incontrarmi per rendermi edotto di questo suo stato di disagio. L'ho ricevuta, sì. Si è presentata con sua mamma, dopodiché è una signora, una giovane signora che ha una quarantina d'anni, la vivandiera, sì. E dopodiché io la sera l'ho richiamata consigliandole, qualora lei l'avesse ritenuto, di sporgere denuncia, qualora lei avesse gli estremi per fare una denuncia. Esatto. Chiaramente. E però poi arrivando ad oggi, questo diciamo lei ha ripercorso a tappe giustamente fino a quel momento lì, sì. Facendo un salto per diciamo stringere un po' i tempi, effettivamente se vuoi, oggi io le do anche il finale. No, il esatto, finale... il finale allora, è che oggi è stato sospeso il generale. È stato sì, più che sospeso, diciamo destituito. Il consiglio d'amministrazione della fondazione, che è l'organo diciamo organizzatore preposto a una fondazione, la fondazione del carnevale, si è riunita e ha destituito il generale, nominando un altro generale a suo posto. Perché secondo voi queste denuncia quindi era fondata, aveva un suo fondamento o diciamo semplicemente lo scandalo vi ha indotto? Secondo la decisione della fondazione, poi il sindaco ratifica la decisione. Sì. Diciamo che ha preso una tale piega mediatica, mm-hmm, che fa del male a tutti. Quindi e è fa colpa del male nostra, è colpa dei giornali che ne hanno parlato. No, mai, anche perché io provengo dall'editoria, quindi non lo dirò mai. Non lo dirò mai, perché non è colpa vostra, voi fate il vostro mestiere. Diciamo che ogni tanto c'è qualche titolo un po' più boante del dovuto, ma ci mancherebbe. Noi abbiamo insistentemente consigliato al generale Bombonato di dimettersi, perché secondo noi questo gli avrebbe consentito di difendersi. Benissimo. Soltanto sindaco, lui e la signora possono sapere se è successo qualcosa. E forse anche la magistratura. Un'ultimissima cosa le voglio chiedere, certo, lì sindaco di Ivrea, se Bombonato aveva mai avuto delle critiche, delle accuse per due suoi comportamenti eccessivi in passato. A me non ha mai mandato messaggi. No, beh, non solo a lei, ma voglio dire, nessuno si era mai lamentato per dei comportamenti di questo tipo. Nessuno, non lo so, io non ho amici che si sono lamentati pubblicamente, assolutamente, dei comportamenti di Bombonato. Va bene, grazie sindaco di Ivrea, grazie per essere stato con noi. Un saluto a tutti, grazie. Quando c'è il carnevale? Che giorni c'è? Ovviamente siete invitati, ecco, a fine febbraio, 23, 24, 25. Ecco, tutti al carnevale di Ivrea, grazie al sindaco, buona giornata. Buon lavoro, grazie a voi, arrivederci. Carlo Genta, hai fatto un gesto come dire ci vado, non ho capito se ci vado oppure ho da fare altro il 23 febbraio. Non ricordo che giorno è, mi sembra una domenica. Sì, può darsi. Penso che avrò da fare altro da queste parti. Da queste parti. Da queste parti. No, appuntamento però, sportivo, dai. Sì, allora... Non ti tiro dentro la questione del carnevale, No, che lancio delle arance. Ma è bello però come... Bello, come sì, no, conosco bene il carnevale, sì. È uno dei più noti proprio per questa cosa, sì. Lancio delle arance, eccetera. Noi invece non lanciamo arance, ma parliamo. Allora, siamo usciti da un weekend di grandi polemiche, siamo passati attraverso la vittoria del Napoli a Genova ieri sera, che ha chiuso il weekend calcistico, e adesso ci proiettiamo verso un derby di Milano molto appassionante, molto interessante, anche molto importante dal punto di vista sportivo, soprattutto per l'Inter. E lo faremo con Paolo Condò, con cui affronteremo un sacco di altri temi, dalle polemiche innescate da Commesso a un Mourinho che ha battuto Guardiola. Che sempre poi, questa sfida che sì, ritorna. Questa sfida infinita. C'è quel video, non so se l'hai visto, che ha fatto molto scalpore di Mourinho, che molto teatralmente si scaglia verso il quarto uomo dopo una segnazione del suo assistente. Parliamo di questo, poi di Sanremo naturalmente. Perché naturalmente? Perché Sanremo è la casa di Leo Turrini, di Marino Bartoletti in questo giorni. Giusto, uno dei personaggi più gettonati del mondo. Bartoletti, si Turrini. Allarga a Sanremo. E avremo anche un cantante tifoso granata, Oscar Gianmarinaro degli Statuto, è un amico, tifoso granata. C'è stato a cercarlo proprio con l'anternino, uno dei... No, il Toro ha cambiato allenatore, lui è un ultra del Toro e quindi lo sentiremo. Quante belle cose, grazie Carlo, l'appuntamento con te naturalmente è dopo il GR delle 14 con tutti i convocati. Noi invece facciamo una piccola pausa, torniamo tra un attimo. Effetto giorno. 13:50 minuti nell'orario in cui normalmente sentite Giulia Crivelli con la lettura dei giornali internazionali. Giulia oggi assente giustificata e, come a volte ci accade, vi teniamo compagnia con le notizie internazionali. Comunque, Giampaolo Musumeci, ciao Giampaolo. Ciao, buongiorno. Ben ritrovato. Presente giustificato. Presente giustificato, questa è la gag che andrà avanti così, sempre, perché, sempre, sempre. Perché così deve essere. Nessun luogo lontano, a partire dalle 16 naturalmente. Tu, ascoltando l'intervista sul carnevale delle arance di Ivrea, ti sei lanciato in un parallelismo con una notizia di oggi. Sì, è un'ardita metafora, stiamo chiacchierando prima, diciamo, ma come possiamo traslare questo tiro di arancia? Ma in realtà, vedere quello che è accaduto in Iowa con le primarie dei democratici, quasi un carnevale, i repubblicani dicono una carnevalata a tutti gli effetti, insomma, errori di conteggio, è arrivato solo il 25%, Trump ne ha approfittato immediatamente. Già Trump è abbastanza, non dico in vantaggio, perché però insomma, sì, fondamentalmente sì, e quindi non ci voleva per i democratici questo passo fatto. Diciamo che è stato un bel autogol, già un fronte democratico abbastanza spaccato, con tanti candidati in cui sembra emergere adesso Bernie Sanders. Ma tu hai capito che è successo con questa app che doveva conteggiare i voti, un'app nuova? Invece... Un'app nuova che pare che a un certo punto si sia bloccata, varie telefonate al call center che non si riuscivano a collegare, cornette buttate giù, diremo in altri tempi, insomma un tilt tecnologico che però ha avuto un riflesso politico importante. Quindi ancora non si sa? Ancora non si sa, fra qualche ora speriamo appunto di avere qualche novità in più e celebrare questo carnevale democratico, o carnevalata, insomma, a seconda dei risultati. Va bene, no, anche perché invece dal primario democratico dell'Iowa, se ho capito bene, in passato è uscito sempre il candidato più votato, quello che poi è diventato il candidato vero dei democratici. Sì, quindi quasi sempre. Sarebbe interessante capire se la tradizione viene rispettata anche questa volta e chi sarà, insomma. Sì. Allora, invece su cos'altro state lavorando per la puntata di oggi di Nessun Luogo, Giampaolo? Ma allora, andiamo a occuparci del conflitto siriano che abbiamo raccontato in queste ultime settimane in maniera un po' tangenziale. Perché? Perché sta accadendo che nel nord-est della Siria c'è una città che si chiama Idlib, che è l'ultima roccaforte ormai dei ribelli contro Assad. L'esercito regolare siriano, guidato da Bashar al-Assad e col supporto dell'aviazione russa, sta menando l'ultima offensiva verso Idlib. Quello che è accaduto nelle scorse ore è che, siccome a Idlib ci sono anche forze turche, vi sono stati dei scontri e scambi di mortaio e di razzi, con morti da parte dell'esercito turco e una risposta da parte di Ankara. Quello che sta accadendo è che si sta chiudendo l'ultimo atto, l'ultimo epilogo della lunga rivoluzione siriana, iniziata come primavera araba nel 2011 e con un bilancio assolutamente non da primavera ma da autunno, diciamo. E quello che sta accadendo è che ancora una volta Turchia e Russia vanno un po' ai ferri corti. Lo vediamo già nel quadrante libico, dove appoggiano i due diversi leader libici, e qui questo incidente, perché ricordiamo che appunto che la Russia appoggia Assad, il quale è contro la Turchia per riguadagnare parte della Siria, si potrebbe aprire un nuovo scenario di conflitto, di braccio di ferro. Vedremo se Putin sarà bravo a gestire questa triangolazione. Ricordiamo, Turchia membro della NATO, ma con gli S-400 che sono un sistema missilistico anti-NATO, insomma una situazione piuttosto complessa. Ti faccio una domanda, Giampaolo: le notizie che arrivano, le notizie a cui parlavi tu poco fa, cioè di questo scontro militare ieri al confine a Idlib, chi è che ci dà le notizie? Voi fate sempre molte verifiche sulle fonti, no? Perché io ieri mi sono trovato a dover dare queste notizie e non capivo neanche io sinceramente che valore dare a queste notizie. Chi ci informa su quello che succede lì, quanti morti ci sono da una parte e dall'altra? Perché non è una zona, diciamo, dal punto di vista giornalistico tanto normale, tanto semplice. Assolutamente, è molto difficile lavorare, al momento praticamente non ci sono giornalisti occidentali. Quello, diciamo, a cui si può fare riferimento, ma sapendo che, come dire, c'è un'informazione di parte, non dico di propaganda, ma forse anche, da una parte le televisioni russe, e quindi avremo il punto di vista di Assad, di Damasco, dall'altra parte il punto di vista turco ci verrà garantito invece dall'informazione turca. Noi quest'oggi vi faremo sentire un giornalista freelance siriano, un indipendente, che è proprio vicino a Idlib, e quindi diciamo lì è una persona che conosciamo, molto affidabile, e che ci garantirà la maggior correttezza possibile dell'informazione. Peraltro, per esempio, hai sottolineato un punto importantissimo: una delle armi fondamentali in tutti i conflitti è proprio l'informazione e la propaganda. Per esempio, la Russia e Damasco hanno negato che la risposta turca dopo il lancio di razzi sui militari turchi, che ha fatto 8 morti, sarebbe stata tramite aviazione turca, mentre Ankara ha detto: abbiamo fatto decollare i nostri jet, abbiamo ucciso 47 militari. Invece magari è un drone, secondo loro. Probabilmente nemmeno, perché Idlib sulla carta è controllata dall'aviazione russa, quindi c'è uno spazio aereo controllato dai russi, quindi tecnicamente è difficile. Cioè, ognuno che sia dice un po' quello che vuole per rincuorare la sua parte. È molto molto difficile. Classico delle guerre. Sì. Sono ore, a parte che sono minuti, diciamo, gli ultimi per quanto riguarda la puntata di oggi, quindi non abbiamo tanto tempo, però sono ore interessanti anche per il fronte Libia, no? Perché sì, ci sono delle cose che succedono. Ma allora, innanzitutto, dopo, diciamo, quella per il momento fallimentare conferenza di Berlino, è accaduto invece un passo ulteriore, quella riunione sempre a Ginevra dei 5+5. I 5+5 sono 5 consiglieri militari eletti, nominati da Sarraj, quindi Tripoli, governo riconosciuto dall'ONU, e 5 da Haftar, il generale ribelle che ormai è alle porte di Tripoli. E sembra che si stiano accordando per un cessate il fuoco. In realtà l'embargo e il cessate il fuoco è stato violato fino a qualche ora fa, quindi aspettiamo notizie, perché sono ancora lì riuniti e potrebbe uscire uno spiraglio di pace. Noi come sempre stiamo facendo un countdown ogni giorno, ormai da una settimana, a nessun luogo, perché le riserve petrolifere si stanno esaurendo e dovremo sentire a brevissimo anche Sanalla, che è il presidente dell'organismo petrolifero più importante, diciamo, libico, perché secondo noi è una storia molto poco raccontata. I terminal sono chiusi e lo stop alla fornitura di petrolio potrebbe causare delle conseguenze enormi in tutto il Mediterraneo. Quindi, diciamo, senza sottovalutare assolutamente le vittime umane che ci sono purtroppo ogni giorno, anche c'è anche l'aspetto energetico guerra, che è importante. Tutto questo e molto altro lo ritroverete dopo le 16 con Giampaolo Musumeci, la sua squadra Nessun Luogo è Lontano. Grazie Giampaolo per essere stato anche oggi con noi. A è voi. Tutto per la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Jacopo De Franchi in redazione, Filippo Reggi in regia. Ad Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14:00.